Te lo si conta a noi com'è che andò. Ma non come son buoni tutti a raccontare, ma come si è buoni noi. Noi che quel giorno si era in piazza Rivoluzione. Si stava tutti pigiati, fitti come le setole di un pennello, che perlomeno il freddo porco lo si tiene a bada. Però a quel modo uno finisce che non vede niente dal gran che c'erano schiene e bertocche. Fu così che so quanti ci si fissò con l'idea di tirar su un ponteggio. Ma siccome il legno le corde sbrisga che si trovavano, si è deciso di montarlo a furia di ciance, un fracco di ciance. Che torre e torre per culo a uno, bastano dei trampoli. Cosa stai ad andare tanto in alto per veder cogliere una zucca? E gli aspiranti carpentieri, e no, incomincia un mondo nuovo. E il posto dei veri repubblicani è in vetta alla torre, a risguardare la vera protagonista di oggi, ovvero la calca pulciosa con tanto di pezzi al culo. Il popolo famelico è smerdo, eppure in piedi, assetato di sangue, e enormissimo drago di fremenda bellezza. Qualcheduno applaude, che il discorso non gli par certo una brutta tirata. E già un altro salta su a dire che la torre a costruirla servirebbe invece a guardare lontano. Ad averci la torre, grida, la si poteva adoperare come attracco per dei palloni aerostatici ed inviare degli osservatori volanti laddove i nostri soldati combattono e crepano, così la si dava anche a loro la buona notizia che, guardalo, ecco il boia, sgola qualcheduno e richiama le menti a terra, vicino al selciato. Ma che? È il sindaco quello lì. Colli si slungano come polli o giraffi per sbirciare oltre le spalle le bertocche fitte, piedi si alzano sulle punte come un esercito di ballerine sdozze e commenti, bestemmie si intrecciano in delle stuoie che poi ogni tanto spunta una parola o una frase. A morte! Con permesso una sega, stiamo mica entrando a messa! Ai, così ti impari a spingere, chi ti credi di essere? Il gran mostardiere! Ma Luigi quando è che arriva? Ho le dita gonfie dal freddo mastino. A un certo punto sale tutto un brubru. È arrivata in piazza una novità nuova, vola nelle fiate, tutti se la passano tipo malocchio raffreddore. Sì, sì, ti dico di sì. Li han brancati e frollati finché han tirato gli ultimi. Ma quanti erano? Boh, 10-20. Gridavano viva il re. Chi è il figlio di un cane che ha urlato viva il re? Io, ma stavo solo riferendo. Io li ho visti, avevano certi spiedi, se li sono magnati vivi con stivali e cappelli. Due sono scappati, facciamone ragù. E risate ed evviva, gravi accenti e ghigni, lacrime di rabbia e gioia, con gli occhi di tutti verso il palco di Madama Ghigliottina. Poi succede una cosa strana. Quando spunta la carrozza si fa un cimitero. Non un fiato, né da sopra né da sotto, come ci avessero infilato un tappo in bocca e l'altro in culo. Infino gli ambulanti stanno zitti e smettono di vendere lupini e ceci al forno. Da non crederci che tutta sta gente qua riesce a fare tanto silenzio. Si sente addirittura il cigolare dello sportello che si apre. Eccolo lì, il Capeto. Un omarino grassoccio, con le gambette e un grosso naso, non meno grosso dei nostri, ma è come lo porta. Si capisce che a noi la canna ci sta d'ingombro, mentre lui la punta in avanti come la prua di una nave. Allora manco avessero dato il segnale, la cagnara riprende. E giù gli insulti, gridi, starnazzi, a morte il re, traditore succhiasangue, baciachiappe degli austriachi, e ciù, salute, grazie, colpa di sto freddo bastardo, ci manca solo che per veder crepare Luigino mi ammalo e ci vado anch'io al Camposanto. Luigi si toglie la giacca e solo con la camiciola doveva sentire un bel giazzo perché tutto sgrullato dai brividi, che poi chi lo sa se il freddo cagnaccio di qui sopra o lo scacazzo di morire. Come che fosse gli han fatto salire le scale e sopra lo aspetta il boia Sanson che gli cava la cravatta. Poi con un paio di forbici gli taglia il codino, un po' sarto un po' barbiere il nostro Sanson che ti prepara per il ballo con Madamigella Mortazza. So quanti là sotto si davano dei pizzicotti. È tutto vero. Sì, compare, stavolta sì. Alla faccia di chi non c'è si perderà lo spettacolo. Non un fiato. È stato un attimo. La mano di Sanson smolla la fune e... Zacca! Quello era bel giorno. Un miliziano della Guardia Nazionale ha tirato la testa di Luigi e ce l'ha fatta vedere che spioveva. Qualcuno delle prime file si è slerciato. È capace che si è tenuto le petacche e se le terrà finché campa. Ci va in giro come se fossero medaglie. Sansone ha gettato nella calca il regale paltò e subito lo han fatto a stracci. Sbrandellato, che tutti si voleva una reliquia, un cicinino di stoffa dell'ultimo re di Francia. Mica era un rimpianto per la monarchia, no, tutto il contrario. Era la fotta di dire c'ero anch'io. C'ero anch'io quando per una volta, una buona volta, una sacrosanta, smerdissima volta, la mannara era in mano al popolo e il re stava sotto. Volano dei coriandoli, coriandoli di storia, per noi altri era quello il carnevale. Figurala come riesci, tutta una piazza piena, sgonfia, fino a scoppiare, che scuola la Marsigliese, c'è chi piange e c'è chi invece è preso dalla ridarola. Infino i muti cantano, questo è il giorno di noi altri, oggi viene al mondo la Repubblica, ma davvero. E dopo, adesso te lo si conta noi come che andò dopo, non come son buoni tutti, ma come si è buoni noi. Quindi, che facciamo? Facciamo che la fine è l'inizio. I documenti, intendi? Sì, però propongo di mischiare le carte. In che senso? Non è tutto vero dall'inizio. E l'inizio è? La ghigliottina. La fine. Appunto. Dopo l'overture viene l'allegro. Allora comincio io. Vai. Contegno e calma, le donne non escano di casa! Contegno e calma, le donne non escano di casa! Contegno e calma, le donne non escano di casa! 3 anni fa, l'idea di marciare su Versailles per costringere il re a traslocare a Parigi, vicino al popolo e all'Assemblea nazionale, l'hanno avuta le donne! La gente adesso finge di non ricordarselo e invita il gentil sesso a starsene a casa, che la decapitazione di un re non è spettacolo da femmine. Col cazzo! Comunque, bisogna festeggiare. Porca merda se bisogna. Lei è Marie Nosière, del Foborgo di Sant'Antonio. E quello seduto lì è suo figlio, Bastien. Lui è lo Speziale, un monopolatore. Lui è Léo Modonet, attore, in arte Scaramouche. Io sono Trignac, difensore dell'ordine pubblico e ciabattino. Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Se dovessi dire il luogo dove più amo stare, direi le tribune della Convenzione. Lassù dove io e le mie amiche ascoltiamo e intanto sferruzziamo. Certo, certo anche per strada mi piace stare anche in mezzo alla gente. Ma lassù, sulle tribune della Convenzione, io ho potuto respirare l'odore della libertà. In strada solo puzzo, ma lassù chi è? Chiedo a uno che mi sta vicino, ma come? Non lo hai riconosciuto? È l'amico del popolo, è Marat. Ecco l'incorruttibile che prende la parola, ecco Saint-Just che tuona «Quello è il posto che non è il posto per una donna!» Dice, Ma noi ci stiamo lo stesso, che tanto c'è battaglia ovunque. Ma lassù, con le parole, si iniziano le cose. Le parole giuste. Qua giù, invece, i fatti. Per esempio? Per esempio, dallo speziale. 3 libbre di sapone, 10 candele e 1 panetto di zucchero. 9 lire e 15 soldi. 9 lire e 15 soldi! Ma sti baiocchi sono 4 giornate di lavoro di una cucitrice! Niente da fare, ti darò 2 lire e 18 soldi, questi sono i prezzi in vigore da stamattina! In vigore? E chi li ha invigoriti? Noi altre donne! La faccio corta, lo speziale è un monopolatore, mi punta pure un mannarino sulla faccia. Prima che noi cacciamo le siringhe piene di melma e pisciottie! E allora si è arreso. Questo mi spinge ad andare alle assemblee, trovare il magazzino dello speziale pieno di sacchi di farina mentre il popolo muore di fame. Questo mi spinge a sgomitare per un posto alla convenzione, poter pagare la merce al prezzo di 3 anni fa, prima che le sanguisughe si mettessero a far quattrini sulla nostra fame. Questo mi spinge a cercare posto in sezione. Mari, tutti vogliamo prezzi più bassi. Ma non li ottieni dalla sera alla mattina. Volete un governo che abbassa il prezzo dello zucchero o un governo che garantisce anche la libertà? Vogliamo zucchero e libertà. E lo zucchero è un bene di lusso, è normale che costi più del pane. 3 anni fa lo pagavamo 25 soldi alla libra. Oggi ne costa 100. È colpa dei monopolatori, a morte. Gli accaparratori verranno puniti. Ma bisogna essere certi di colpire i veri farabutti. Non si può fare di ogni verdura un mazzo. È da un pezzo che li teniamo d'occhio. Lo abbiamo visto tutti cosa c'era in quei sacchi. Guarda, Trignac, c'è davvero la farina. Lo sapete cosa ha scritto Marat proprio stamattina? Che in tutti i paesi dove i diritti del popolo non siano soltanto dei pezzi di carta, basterebbe il saccheggio di qualche magazzino e i monopolatori appesi fuori dalla porta per farla finita con gli intrallazzi di pochi che ne tengono migliaia nella miseria. E tu come lo sai che non sai leggere? Stamattina al mercato non si parlava d'altro. E io invece l'ho letto l'articolo di Marat e non dice affatto quello che dite voi. Al contrario, dice che ci vuole un tribunale per punire gli affamatori e che i cittadini più ricchi devono mettersi d'accordo. Trignac! C'era merce per migliaia di lire. Quello era un arraffone, ha avuto quel che meritava. Sicura, Marie? Non chiedevate la pena di morte per gli accaparratori e la vendita della merce requisita a un giusto prezzo? Non avete ottenuto nessuna delle due, ma se a voi sta bene. Almeno è un inizio. Bastien, vieni. Torniamo a casa. Ma perché si è sempre in guerra nei secoli dei secoli? Cammina. Perché? Per vendetta della guerra di prima. Cammina. Cittadini, è giusto manifestare la nostra appoggio alla Costituzione. Non chiedere che la Costituzione venga messa in atto. Adesso che si è spiccata la zucca a Luigi, una mucchia d'aristocazzi millordoni ci restan male, poverelli. Cammina. Com'è quella frase? Quale frase? Quella frase. Non sono gli uomini, ma gli stati a farsi la guerra. No, non questa. Quell'altra che dici sempre tu. Senza guerra non si tien su la rivoluzione. Si deve srandellare o saremo srandellati. Bastien, siamo arrivati. Magari fosse bastato il cavino di Capeto. Invece, sbrisga. La testa del re, la testa del re, sempre una è. Ma se su un po' di più, falla rotolare giù. Te la immagini scendere ruzzoloni per i vicoli, fino a vedere la luce della libertà. Come direbbero gli scaldasedi alla sezione, qualche zucca bisognerebbe alzarla in alto, che possa vederla meglio la luce. Quelle dei monopolatori, tanto per cominciare. Si riconoscerebbero dai capelli strappati e dagli occhi cavati dalle donne. È Trignac che dice così. Le femmine all'assemblea di sezione, fai meglio a guardarti le unghie se non vuoi che te la grattino loro la rogna. State tutte ingruppate, che parete una cosa sola, un mostro verdoccuto e chioccio, con certe grinfie dritte e puntute come i vostri ferri da maglia. Parlottate, ribollite, proponete petizioni agli scaldasedie della sezione, così quelli possono inoltrarli, presentarli, insomma, farli votare alla convenzione. Ma là dentro di buoni ce n'è pochini. I più pensano che certe faccende non possono entrare nella testa delle femmine. I pulcini nel nido, coi becchi aperti, ce li abbiamo noi, e neanche pochi. C'è da arrotare parole come baionette. C'è da arrotare parole come baionette. I due gran uomini, Marat e Robespierre, hanno detto che non è colpa del popolo e che la nostra fame è legittima. Troppo buoni. E l'incazzo è un dovere. Ma gli eroi della Bastiglia non si dannano l'anima per un po' di zucchero. Facile a dirsi, quando ce l'hai. A confondere gli infami con la fame è un bel gioco di prestigio, ma piluccata la polpa resta il nocciolo duro, il massimale sui prezzi. Ripetila. A confondere gli infami con la fame è un bel gioco di prestigio, ma piluccata la polpa resta il nocciolo duro. Il massimale sui prezzi. Bisogna farlo per legge, altrimenti che li tengono a fare i loro bei culi sui seggi della convenzione? Serve prima la legge. Fare la legge e farla applicare. Fare la legge e farla applicare. La Repubblica non la fai con le ciance. La Repubblica non la fai con le ciance. Bastien crolla addormentato. Dovresti tenerlo d'occhio, sai. Cucio uniformi e maglie 10 ore al giorno. La sera vado in sezione. Mi dici quando lo tengo d'occhio? Forse dovrei legarlo, mettergli un guinzaglio come a un cane. Almeno con te fa qualche spicciolo. Se gli succede qualcosa... Cheta, finché sta con me non gli succede niente. Notte, Tregnac. Buonanotte. Mamma. Shh, zitto e dormi. Mamma. No. E mio padre? Non c'è mai stato. Dormi. Allora io sto con Tregnac. Io resto con lui. Ti ho detto di dormire adesso. Ecco l'inizio. Che poi non lo so quando è iniziato tutto. L'inizio di cosa? Che devo stare attenta al garzolo. Che manco lo volevo un figlio. Che il padre è meglio dimenticarlo. E che l'unico uomo che ho mai amato è partito per il fronte e non è più tornato. Per questo mi chiede sempre della guerra. Ma quando è iniziato tutto? Ogni passo è un inizio. E sì, io mi agito, perché se le donne sono più della metà degli abitanti, allora andrà a essere la metà anche nei 40 che entrano alla commissione per presentare la petizione. Che pure ci volevano arrestare per oltraggio all'assemblea, perché minacciamo di insorgere se non ci danno quello che chiediamo, che poi chiediamo solo di non morire di fame. Il giammerdone che parla dopo di noi ci fa passare per attentatori. Noi chiediamo il massimale sui prezzi, la tassa per i ricchi, l'arruolamento di tutti i firmatari delle petizioni antirivoluzionarie e dei sospettati di incivismo. E quello ci paragona ai controrivoluzionari, ci mette in bocca parole che non diciamo. Buffoni, buffoni, le loro facce uguali alle loro pance, buffoni gonfi, rotondi, che neanche a disegnarli perderesti tempo. Un cerchio, neanche ben fatto, e un altro più piccolo sopra uguale, e nasi lunghi e bocche larghe e mani molli, buffoni. Ma come si è arrivati a questa pantomima? A questo carnevale che fa incazzare, mica festeggiare, a parlare di bastoni, di pugnali, di fumo per disperdere, di assassini, di fronte alla richiesta di un prezzo massimo sulle derrate e di una tassa per i ricchi. Idioti, idioti, come ogni espressione ufficiale, servilmente servita per ottenere il totale servilismo. Per cosa abbiamo donato il sangue? Che pure ci volevano arrestare, sì, per oltraggio all'assemblea, perché minacciamo di insorgere se non ci danno quello che chiediamo, che poi chiediamo solo di non morire di fame. Dov'è il pane che abbiamo pagato per strada per arrivare all'inizio? Zac! E i cappelli per aria, la festa, e una mia amica si è macchiata lo scialle. E il pane? Ora doveva venire il pane! Buongiorno, si può? Sì. Ma lascia la porta aperta, se no chissà che pensano le male lingue. Ti ascolto. Sei venuto a dirmi cosa? I tempi sono quelli che sono. Io credo che non devi restare da sola con il ragazzo. Credo che hai bisogno di un uomo accanto. E saresti tu? Non fare finta, lo sai che da sola è difficile. Me la cavo da me, non vedi? Te la cavi, sì, ma per quanto ancora? Sta succedendo di tutto. Se vivessimo assieme o fossimo sposati, potrei occuparmi non solo di Bastien, ma anche di te. Grazie dell'offerta. Ci penserò su. E grazie per quello che fai per Bastien. Ti chiedo di tenerlo a dormire da te stanotte. Ho conosciuto Claire. Claire Lacombe è una amazzone. Mi ha invitato al club dei Giacobini. Ci vado, stasera. Finirai per metterti nei guai, vero? Nei guai ci siamo già, Trégnac. Tutti quanti. È così che deve essere. È la rivoluzione. Non mi fido di quell'amazzone. Io invece mi fido del mio stomaco e dei miei occhi. E il mio stomaco mi dice che quel che riesco a comprare al mercato non basta. Per me e per mio figlio, i miei occhi vedono che i ricchi hanno da mangiare. Alla convenzione stanno... Ma chi se ne... Di chi siede alla convenzione, al comune o all'assemblea di sezione? Scrivi. Chi se ne... Di chi siede alla convenzione, al comune o all'assemblea di sezione? A volte penso che dovremmo farcela da noi donne, la nostra convenzione. Claire è d'accordo. Faceva l'attrice prima, ma dice... che la rivoluzione è meglio del teatro. La rivoluzione è meglio del teatro. La rivoluzione è meglio del teatro. Musica. Il teatro è la rivoluzione. E voi? E voi? E voi? Io sono Leo Modonet. Piacere, Marie Nozière. Avrei bisogno di una stoffa a righini, gialla, ma non posso spendere più di 20 soldi. Per 25 pezzi vi faccio anche il vestito. No, quello voglio cucirmelo da solo. Bastien, vai a prendere la cassa con i ritagli di stoffa. Posso uscire? Mi aspetta Trégnac. Dove ti ho visto a te? Ah, stamattina all'osteria, che mangiavi una mela. Stamattina all'osteria? No, no, sì, no, era lì. No. Sì, ma non importa. Sapete dirmi dov'è la bottega del cittadino Solenne? Perché volete saperlo? Perché è un accavarratore. Zitto, Bastien! Calmi. Non importa, non importa. Perché eri all'osteria stamattina? Ero con Trégnac. Non ci devi andare, è pericoloso. No, non mi succede niente. Non ci devi andare, è pericoloso. Sì, ho capito, ma ero con Trégnac. Non ci devi andare, è pericoloso. Non ci devi andare più, perché lo dico io. Giura che non ci vai più. Giuro. Non ci vai. Il teatro è la rivoluzione. Non... pensavo che venivate a quest'ora. Per il vestito, si è rotto. Avete voluto cucirvelo da voi. C'è poco da fare. Me ne serve uno nuovo. Serve un tessuto più forte. Vi costerà. Non ho soldi. E come credete di pagarmi? Mi metto al vostro servizio. Al mio servizio? Mica sono una dama io. So chi siete e come la pensate. E secondo voi io posso lavorare per niente? Non per niente. Possiamo spaventare gli accaparratori o monopolatori, come dite qui. Che ne sapete voi? Siete un attore. Le vostre amiche mi hanno dato una lista. Va bene. E come lo volete il vestito? Non lo so. Che faccia paura. Ho molto lavoro. Tornate tra 10 giorni. Grazie. Ah, Marà è morto. Marà non è più. Cazzo! Il teatro è la rivoluzione. No, non pensavo che venivate oggi. Vi ho visto al corteo funebre per Marà. Avete pianto? Lui era l'amico del popolo. L'abito è pronto. Certo, ancora non ci si crede, vero? Che Marà è morto, che dovremo fare senza di lui. È per questo che vi prudono le mani. Beh, sì, anche. Allora dovreste arruolarvi per la bandea. L'assassina era una di quelli là. Io credo che qui a Parigi il popolo stia combattendo una battaglia non meno importante. Per questo che hanno ucciso Marà, ma non possono ammazzarci tutti. Non avete paura di morire? Meno di quanta ne abbia di vivere sotto un ponte o in una fogna. Una mia amica che faceva l'attrice ha una mucchia di roba presa nei teatri. Me ne ha data un po'. Veramente c'è solo una giacca. L'importante è che resista ai colpi. E a questo punto dovreste provarla. Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Trégnac! Lo capisci che se continui fai una brutta fine? Voi donne dovete occuparvi del pane per i vostri figli, e questo è quello che facevi prima. Ma adesso andare in giro armate, fare le ronde, parlare alla convenzione, sono cose da uomini queste. Le donne fanno la rivoluzione tanto quanto gli uomini. Ma non allo stesso modo, maledizione. Marie, ascoltami. Resta qui, ci penso io a proteggerti. Hai un figlio, pensa a lui. Quella spia. Non sono una spia. Ma perché diavolo devi stare con certa gente? Attori, teste calde. Come quel buffone che ti fa gli occhi dolci e che si crede un gran dritto perché di notte va a spaventare i bottegai. Sono questi i veri rivoluzionari. Tutto cambia in fretta, non seguirli alla malora. Per favore, Marie, non si può tirare troppo la corda. Finisce che si spezza e che ti resta in mano. Bastian, raccogli i tuoi vestiti e mettili in un sacco. Perché? Andiamo via. Io vado via. Io qui non ci voglio più stare e tu non puoi starci da solo. Un padre non l'hai mai avuto, ma visto che te ne sei scelto uno. Stai con Trignac tutto il tempo. Tanto vale che ti prenda a casa sua. E tu? Non sono affari tuoi, Bastien. Buona fortuna. E chiudi la porta quando esci. Mamma, non l'ho fatta la spiata. Non importa. Stai bene, Bastien. Senza le donne! La rivoluzione manco comincia! Ma nego Dio ce l'ho anch'io! Alla marcia su Versailles, eppure in campo di Marte, a farmi sparare addosso! Non si può tirare troppo la corda, finisce che si spezza e ti resta in mano, ma se non tiriamo adesso, dopo è tardi, non capita un'altra volta di poter cominciare tutto. Io indietro non ci torno, è come un'onda che monta, travolge tutto e poi si ritira portandosi via ogni cosa, mi sento derubata. Hanno chiuso con un decreto tutti i club femminili. L'onda si sta ritirando, ribadisce Claire. Serve un nuovo inizio. Serve un nuovo inizio. Alla convenzione. Dobbiamo entrare alla convenzione. Io e la mia compagna Claire dobbiamo entrare, parlare, farci sentire alla convenzione. Io e la mia compagna Claire, perché non è venuta nessun'altra? Vi copriranno di sputi, lo sapete, non aspettano altro. Sì, lo faranno. E probabilmente è l'ultima volta che entreremo lì dentro. Bisogna tenere duro abbastanza per arrivare al secondo atto. Ammesso che ci sia un secondo atto. Se questa è la fine, che almeno sia a modo nostro. Va bene. Convenzione nazionale. Estratto dal verbale del 15 Brumaio, anno secondo della Repubblica Francese Una Indivisibile, giovedì 6 novembre 1793, vecchio stile. Si ammette alla barra una deputazione di cittadine che si annunciano come portatrici di una petizione molto importante di ordine urgente, in rappresentanza di svariate sezioni. Prego. Cittadini. Cittadini, la società delle repubblicane rivoluzionarie, questa società composta per la maggior parte da madri di famiglia, mogli dei difensori della patria, non esiste più. Una legge, a voi estorta con un falso rapporto, ci impedisce di riunirci in basta, assemblea. Basta, buttatele fuori. Cittadini, l'ordine del giorno. Urla e risate. Una legge a voi estorta con... La Commissione decide all'unanimità di tornare all'ordine del giorno. La società abbandonano la barra rivoluzionaria. Questa società urla e risate. Urla e risate. La sala riempisce di applausi. Fine. Ancora un nuovo inizio. Per favore. Ancora un nuovo inizio. Quando ci siamo sentite parte di qualcosa di più grande, quando noi moriamo per voi, quando il pane non è mai un pretesto, quando non si sa dove si fermerà il popolo, quando non si sa quando accadrà che si sarà davvero libere, quando abbiamo messo il mondo sotto sopra, quando hanno arrestato la mia amica, cittadina Claire Lacombe. Quando il mio nome non era sulla lista, quando capisco che non la rivedrò più, quando rimango sola, quando resto ad aspettare, quando trovo un lavoro in un bottonificio, quando il padrone tenta di violentarmi, quando ritornano i cattivi ricordi, quando la fine dell'inverno non volle dire la fine della fame, quando hanno arrestato Robespierre, e quando la ghigliottina ha fatto zac, Marat non è più Robespierre non è più. Saint-Just non è più. E prima Hébert, Danton, e prima ancora il re, la regina, Jacques, quando il senso di vuoto mi prende e mi piega in due, quando capisco che nessuna di noi ce la farà. Quando piango, alla fine piango. Piango per Claire, per me stessa, per Bastien, per la bottiglia a cui mi trovo attaccata. Perché faccio l'amore con Scaramouche, ma è solo un sogno. Perché mio figlio mi viene a cercare. Perché lo mando via per la seconda volta. È così per tutti. La gente se ne va, muore, finisce in galera. Alla fine si resta da soli. Meglio per te che lo impari presto, perché all'orizzonte non si vede nulla. Per elemosinare dagli osti i fondi delle botti, la risciacquatura del mosto, per i sonnambuli, gioventù dorata, automi senza la R, per quegli strani muschiati che mi sfottano per strada, che mi sputano, che mi fanno inciampare. Ancora un inizio, per favore. Ancora un inizio, per favore. Ancora un inizio, per favore. Ancora un inizio. Allora, come ti senti? Meglio, dottore. Che facciamo? Ripartiamo dall'inizio. Costruiamo la tua storia fino al punto in cui incontra la mia. E l'inizio è? La decapitazione di Capeto. Cosa ne pensi tu? Di chi? Di Capeto? Sì. Sì. Luigi Capeto è un cittadino della Repubblica che ha commesso una sequela di crimini e come tale va giustiziato. Non si può regnare impunemente. Sì, la frase di Saint-Just è diventata ormai un ritornello da osteria. Dove sei tu mentre la ghigliottina cala giù? Perché tu dove sei? Vabbè, io lo dico dopo, dai. Lui va nella direzione opposta, la sinfonia del grande evento, campane, cannoni, tamburi, ma quanti altri in un momento simile rinuncerebbero allo spettacolo per dare la precedenza al dovere? Ma la terapia magnetica non ammette dilazioni. Eh? Ma vogliamo capire che cos'è questa terapia magnetica? Sì. Allora, io qui ho un estratto da memorie per servire alla storia e al fondamento del magnetismo animale, di Puysegur, l'allievo di Mesmer, che sarebbero i miei maestri. Allora, io credo che esista un fluido universale in continuo movimento che tiene in vita tutta la natura. L'uomo, come tutto ciò che esiste, è a suo modo saturo di fluido universale. Può essere considerato come... Però non lo mettiamo tutto. No, però questo è importante. Allora, la nostra organizzazione elettrica è così perfetta che con il solo ricorso alla volontà si possono operare dei fenomeni che, per quanto fisici, hanno l'aria di essere miracolosi. Ma insomma, vuoi dirci dove sei mentre di là si sta scrivendo la storia? Da una mia paziente. Ah. E non una paziente qualsiasi, vero? No. Quando sei con lei la tua mente è altrove, ma quando sei altrove la tua mente è con lei. Il trattamento magnetico non può che essere pericoloso per la morale. Il magnetista seduttore, che cliché. Ti ci vedo con Madame. Oggi siete distratto e l'effetto è minore e ti chiede un massaggio. Credo che dovremmo concentrarci sulla sede della malattia e siccome il mio è un problema di asma, dovremmo concentrarci qui. E si tocca il diaframma. Boato lontano. La decapitazione di Capeto. Oh mio Dio. Vabbè, avete finito? Andiamo avanti. Sì, eh? Sì, andiamo avanti. Perché lei non è l'unico personaggio importante della storia, giusto? No, poi c'è quel funzionario, quello della sicurezza nazionale. Sì, quello che soffre di emicrania. Sì, lui ha un ruolo molto importante nella storia. Allora, ti spedisce lontano da Parigi, in Alvernia, per via di sospetti di controrivoluzione di sonnambulisti. Quindi visionari e madonne, un pericolo per la nuova Francia. Sì, sono stati scoperti casi insoliti col sospetto che possono essere ricollegati a congiure filomonarchiche. Un'indagine sul campo. Ma io sono un medico, non sono un poliziotto. Qui a Parigi ho i miei pazienti, non li posso lasciare così all'improvviso. Sì, ma c'è dell'altro che dobbiamo sapere di te. Sei stato medico di battaglione in un'altra guerra e le ferite riportate ti saranno sufficienti per tutta la vita. Ti tocchi spesso le cicatrici, sul torace e sul costato. quando i ricordi della guerra e delle ferite subite ritornano, riaffiora anche il dolore. Ed è per questo che la tua storia va avanti e indietro. Continui ricordi, riaffiorano. Sì, è un nostalgico. Allora, sì, sì. Il consiglio è levarsi da Parigi per un po' con un incarico ufficiale del comitato, mettere le doti di magnetista al servizio della Repubblica. Sono rimasto l'unico a tenere insieme gli ideali della Repubblica e del magnetismo. È importante. Sei pronto a dire addio? Un'ultima cosa. Chiedi a Madame qual è la causa del suo male. La menzogna, dice lei, vivo circondata dalla menzogna. Si può dire che l'ho sposata. Taglia corto e ti chiede se sei andato a dirle addio. È un commiato e lei sa che quando tornerai tutto potrà essere cambiato. E lo sai anche tu. Ascoltatevi, prego. Io sospetto di avere in qualche modo condizionato il vostro animo attraverso la terapia. Non posso partire senza aver sciolto questo dubbio. Voi mi state lasciando. Parto per un'indagine. Mi rendete due volte malata. Forse non siamo che una donna sola e un uomo tormentato, separati dallo schermo delle convenienze. Vi dite addio. Arrivederci. Ci diciamo arrivederci. È ora di partire. Prima chiedo di risparmiare Madame. Se dovesse accadere qualcosa, nessuno può dire cosa sarà il nostro potere dopo queste giornate. Il viaggio del dottor Dan Blanc. La marcia di uomini a cavalli è un incrocio fra tela di Penelope e supplizio di Tantalo. Il teatro della prima indagine in terra d'Alvernia è un palcoscenico rozzo, distante da Parigi, ben più delle 100 leghe coperte in quei giorni di viaggio. Caso numero uno, l'uomo cinghiale, il licantropo, il satiro in persona, estate 1793, quell'uomo ha il diavolo in corpo. Il diavolo non c'entra. Nelle notti di plenilunio il magnetismo terrestre e quello lunare toccano il loro picco. Nei soggetti sensibili, se il naturale magnetismo animale trova intoppi o blocchi di qualche tipo, può provocare il delirio e attacchi di priapismo. Il viaggio procede. Querce, frassini, castagneti da frutto ben tenuti. A rendere ostile un territorio non sono la conformazione o il clima, ma piuttosto la mente di chi lo abita. Forme di pensiero che si perpetuano immutabili nei secoli, stagione dopo stagione. Caso numero due, l'indemoniata, estate 1793. Noël Chalapi, di anni 19, residente a Manorba, sottoposta in tenera età alle cure magnetiche del signore della zona. Il cavaliere d'Iver. Già, per via d'un malessere definito dalla madre vuoti di memoria. Una volta cresciuta diventa sonnambula e un prete costituzionale abusa di lei. Avete visto? Nessun comitato d'accoglienza stavolta. Dietro le finestre si muovono ombre di sentinelle appostate. Altri tre armati sono sul tetto. State tranquillo. Non sono affatto tranquillo. Non dovete sentirvi responsabile. Lo sono. Avete l'atteggiamento di un giocatore, o meglio, di un attore. Ecco, quando si è sulla scena, o nel mezzo di una mano di carte, o sul campo, tutto deve essere fatto per portare a casa il successo. Il successo è riportarvi a Parigi sano e salvo. Siamo così lontani. Lontano dai miei pazienti, lontano dalla mia... Ho accettato questo incarico senza pensare che potesse essere l'ultima fatica della mia vita. Andiamo avanti. Caso numero 3. La signora bianca, Dame Blanche. Che gioco di parole. Estate 1793. Juliette Tourla. Di anni 21, residente a Malacarne. Sottoposto dal cavaliere... Il cavaliere d'Iver. Esperimenti di sonnambulismo per ragioni non meglio chiarite. Parlano di Dio. La donna rimane incinta di un anno. Che forse il medesimo Iver. La figlia Margot Tourlan, di anni 7, viene a sua volta posta nello stato di sonno. Indotto dalla stessa madre, che le suggerisce visioni e profezie, la bambina sostiene di parlare con la signora bianca e i compaesani si convincono che veda la Vergine Maria. Su istigazione della Vergine, gli abitanti del villaggio uccidono il sindaco e il parroco nominato dalla Repubblica. 3 mesi di viaggio, 150 leghe da Parigi. Una cartella con 3 fascicoli, 3 casi sospetti, il presentimento di un abuso della credulità popolare per scopi reazionari e come unico risultato 2 conferme di scarsa utilità. Sì, 2 casi su 3 nascondono in effetti l'attività di un magnetista. Il misterioso signore d'Iver. Ma solo in 1 caso su 3 il magnetismo ha contribuito ad allontanare il popolo dalla fedeltà alla Repubblica. Mi chiedo se questi pochi elementi soddisferanno l'appetito del comitato. Ma poi siamo sicuri che sia colpa del magnetismo, per quanto mal praticato e sviato. La controrivoluzione non ha certo bisogno di streghe e profetesse. La situazione politica della regione è talmente esplosiva che un agente straniero della nobiltà non avrebbe alcun bisogno di ricorrere al magnetismo per diffondere credenze stravaganti e superstizioni che a loro volta istighino il popolo contro la Repubblica. Qualunque sermone di un prete refrattario può ottenere in queste terre risultati preoccupanti e sollevamenti reazionari. Mi domando dunque, perché utilizzare metodi occulti quando si possono ottenere gli stessi risultati con minore fatica? Ho l'impressione che in Alvernia le pratiche magnetiche dei controrivoluzionari siano davvero l'ultimo dei problemi. Non aspetta a me trarre conclusioni sul senso della missione. Il cavaliere Diver ha operato in Alvernia nell'89 e nessun tribunale potrebbe accollargli gli eventi di anni dopo. Farei volentieri due chiacchiere con questo ideatore di tali irresponsabili esperimenti. Che ha fatto o non ha fatto e perché hanno conseguenze simili? Ho sempre ritenuto impossibile magnetizzare un individuo contro il suo libero arbitrio e senza la sua collaborazione. Ma il discorso cambia per bambine piccole come erano state Juliette e Noël. Un bambino è facilmente suggestionabile anche senza ricorrere al magnetismo. Con l'aggiunta di quest'ultimo diviene creta nelle mani di un vasaio. Magnetizzando queste bambine, il cavaliere di Ver ha soltanto mal praticato, agito senza criterio o ha inteso fare il male. Ad ogni modo, un individuo del genere starebbe meglio dietro le sbarre. A piede libero può rovinare la vita di molte altre persone. Ah, Mara è morto. Mara non è più. Cazzo. Se dovessi avere una crisi, strofinatemi le tempie e i piedi con vigore, dite agli uomini della scorta. Quanto pensate di poter andare ancora avanti? Che intendete? Intendo dire che il Laudano è finito. Posso farcela. Sono solo vecchie ferite o avete anche qualche osso fuori posto? No, no, le ossa non c'entrano, sono solo i ricordi. I ricordi? Sì, dalle mie mani, da Sfluidum, il fluido investirà l'ostacolo e lo spazzerà via. Una volta un uomo mi ha detto che a riaprire le cicatrici sono i cattivi ricordi. Ecco, lui era in grado di mandarli via senza bisogno di ricorrere a Laudano. I cattivi ricordi fanno male soltanto al cuore. Avete male al cuore? Forse sì. Io vorrei riportarvi a Parigi sano e salvo. Abbiamo ancora un altro caso da risolvere. Jean del Bosco, caso 4. Un ragazzo orfano, adottato dal signore della zona e da lui educato secondo i precetti della nobiltà e successivamente inselvatichito e scappato nel bosco. Ora, su questo caso abbiamo due elementi in più. Primo, Jean del Bosco da sonnambulo non ricorda nulla della sua condizione attuale, quella da selvaggio. Secondo, Jean del Bosco da sonnambulo pensa di vivere ancora nella dimora del signore d'Iver. Ancora questo nome? Beh, è sempre qui, sempre dietro di me come un'ombra. Magari non ti è alle spalle, forse ti precede. E allora supponiamo che il bambino sia stato sottoposto a due differenti condizionamenti magnetici. Il primo per trasformarlo in un perfetto rampollo della nobiltà, il secondo per renderlo selvaggio. Perché? Perché trasformare Jean del Bosco in due individui tanto diversi? A quale scopo? E ancora, se il primo sonnambulismo è certo rivolto a fare il bene del ragazzo, il secondo sembra chiaramente rivolto a farne il male. E allora come mai ha funzionato? Un magnetizzato non può essere rivolto contro se stesso, al contrario, avverte subito se l'intenzione del terapeuta è benevola o malevola. Persino il licantropo, il caso 1, l'ho avvertito in qualche recesso della mente e nel mezzo delle sue convulsioni. Ma se un ragazzo colto ed educato può essere indotto a diventare una bestia, allora quel principio ammette una grave deroga. E se così, la teoria del sonnambulismo è da rivedere e la pratica terapeutica da rifondare. Ormai ne sono convinto. Il magnetismo funziona anche a fin di male. Bravo. La volontà del terapeuta adesso si staglia nel mezzo. Devo decidere. E questo fa paura. La Repubblica è nulla senza l'uguaglianza. E l'uguaglianza è nulla senza un rimedio universale contro la malattia. Una terapia capace di guarire tutti allo stesso modo senza distinguere il nobile dal poveraccio. Rientro a Parigi. Avete notizie di Madame? Ha lasciato Parigi, nient'altro. Non è stata coinvolta nella rovina del marito e tanto basta. Parigi sembra come prima, ma il cielo ha una tonalità diversa. L'aria trabocca di fluido magnetico. In piazza un uomo sta per essere decapitato, un repubblicano, non un aristocratico. Non capisco. Un repubblicano sta per essere decapitato. È tutto cambiato. Hai un appuntamento alle 5 sotto la prigione del Tempio. Non volete prima sapere il risultato del viaggio? Ho la prova che esiste un uomo in grado di limitare la libertà delle persone e un nobile. Il cavaliere di Ver. Per quanto riguarda la sicurezza generale ci sono altre priorità. Un nuovo incarico. Maria Antonietta è malata, i complotti per liberarla succhiano energie preziose, quindi si è deciso di processarla rapidamente. Ci sono svariati capi di imputazione, ma è necessario esaminare il Delfino, Luigi Carlo Capeto, per scoprire se l'austriaca non sia venuta meno ai suoi doveri di madre. Volete che sonnambulizzi il Delfino di Francia? Volete che trovi delle prove? No, noi vogliamo solo la verità. Noi vogliamo le prove che diano al popolo un'idea chiara di cosa sia stata la monarchia. È solo un bambino. Senza la patina da principino, alla fine ne verrà fuori un buon repubblicano, uno del popolo. Chiedo i sintomi. Catatonia, indolenza, delirio notturno. In buona sostanza, si sveglia di notte, urla, trema come una foglia e a volte si piscia e si caca sotto, con rispetto parlando. E quindi cosa accade? E quindi vai e fai quello che ti dicono. Va bene. Siediti. No. Siedi. No, non lo voglio fare. Dai. No, non lo voglio fare, davvero. Lo devi fare. Dai, no, ma non lo voglio fare. Siediti. Dai, coraggio, siediti e fallo. Siediti e fallo. Vai. Come vi chiamate? È opportuno usare il tu. Sì. Come ti chiami? Luigi Carlo Capeto. Piangi. Luigi Carlo Capeto. Piangi. Luigi Carlo Capeto. Piangi. Luigi Carlo Capeto. Quanti anni hai? Ne ho compiuti 8 il 27 di marzo. Cosa ti spaventa di notte? I brutti sogni. Che cosa sogni? La merda. Chi ti ha insegnato questa parola? La merda esce dal gabinetto. Ha la forma di un piccolo uomo. Ci sono pure scarafaggi e topi che gli strisciano dietro. Cammina nella stanza. Hai paura? Sì. Ho paura che mi prenda e mi trascina giù. Chiedigli della relazione con la madre. Chiedigli della relazione con la madre. Sai dov'è tua madre? No. Cosa facevate quando lei era qui? Avevo i capelli lunghi e lei me li pettinava. Giocavamo a dama. Mi faceva leggere vecchi libri di storie. Che genere di storie? Storie di cavalieri e di principesse. Chiedigli come lo appella la madre. Chiediglielo. Come ti chiama tua madre? Luigi Carlo. E poi? Altezza Reale. Ti ha mai detto che sareste potuti scappare? No. Qual è stata l'ultima cosa che tua madre ti ha detto prima di lasciarti? Che se non ci vedremo mai più, devo confidare in nostro signore. Mentre ti pettinava, ti accarezzava? Rispondi. Ti accarezzava i capelli. E poi solo i capelli? Ho paura. Di cosa? Del suo male. Del suo male alla testa. Non è lui che ha mal di testa. Lui la testa la perderà. Basta così, basta. È un gioco. Un esperimento per dimostrare qualcosa. Il proprio potere assoluto su un inerme. I delitti di Maria Antonietta sono talmente schiari che il processo è durato solo 2 giorni. Ha buttato via i soldi dello Stato per tenersi i suoi favoriti ben stretti tra le cosce. Austriaca e bagascia, che non si sa cos'è peggio. Ha convinto il marito a tradire il popolo francese. Davanti al tribunale rivoluzionario è stata accusata di essersi infilata nel letto del figlio per monarchizzarlo a puntino, come a dirgli che ormai lei non era più la sua mamma, perché lui era il re. E in quanto re aveva il sacrosanto diritto di fottersi una regina. Apriti cielo. Intanto altre teste cadono. C'è chi va al patibolo cantando la marsigliese sotto una pioggia di scaracchi, chi invece sgola frasi al vento prima di perdere la testa. La migliore è quella di quel giornalista che prima di tirare i cracchi ha fatto un motto senza battere ciglio. Ha detto: peccato, avrei voluto vedere come andava a finire. E Danton? Danton ha detto al boia: mostra la mia testa al popolo, ne vale la pena. Ma la più divertente è proprio quella di Maria Antonietta. Ha detto: pardon, monsieur, non l'ho fatto apposta. Ha calpestato il piede alla boia. Curare la gente è meglio che decapitarla. Tutto precipita. E io non posso restare fermo. Come ha detto quello prima di infilare la testa nel buco? Voglio vedere come va a finire. Non me lo perderei per niente al mondo. E te lo si conta a noi, per il momento. Merda. Bonbon Robespierre si butta giù da una finestra. Saint-Just si fa arrestare a zucca alta, bel bello come un dio, il capello che fa l'onda, li scorciano tutti il giorno dopo. Per una decade seguitano a cadere zucche, 80 membri del comune incontrano Madama Ghigliottina. Brutta storia. E dopo? Dopo fu tutta quaresima. Ma ne valsa la pena? Troverai sempre chi ti dice di no. Si tratti del senno di poscia, troppo facile, o del senno dei servi, più facile ancora. Fosse per quelli così non si farebbe mai una sega. Noi abbiamo provato a costruire la torre, ricordate? La torre che ci permettesse di sguardare il mondo e i tiranni del mondo cadere da basso, o almeno le loro teste. È a quel punto che è cambiato tutto. Infatti adesso bisogna contarvi la parte smerda. Tocca farlo. Era smerda anche l'altra, ma era uno smerdo che noi si poteva dire qualcosa, perché in fondo era in nome nostro che si era fatto quel baraondo, la guerra, il terrore. Era spinti dalla paura che mettevamo noi altri, il sovrano popolo sanculotto, che si decideva questo e codesto, e ci si mandava l'un l'altri al patibolo e perde chi ci arriva per primo. Anche arrivarci per ultimo mica è stata sta gran vittoria. L'ultimo chiude la porta e Robespierre l'ha chiusa in faccia a noi, che come sempre l'abbiamo presa nel barsacco. Prima era comunque un bello smazzo, si faceva la fame e tutto, ma i giochi erano aperti, mentre dopo è andata ben peggio, e peggio ancora. Ci avevano detto donate il sangue che dopo faremo festa. Bella festa. La signoria vostra è invitata al ballo delle vittime. Per partecipare è necessario aver avuto almeno un parente ghigliottinato. Gradito abito nero e fascia al braccio, per le dame nastro al collo, color rosso sangue. Uomini col colletto della camicia tagliato, codino tagliato, cipria. Tema della serata, la decollazione. Shhh. Arriva l'armata dei sonnambuli. Il cavaliere di Ver. Il mio vero nome non mi piace più. Bisogna guardare avanti. Sapersi rinnovare in questa grande parodia della rivoluzione, giusto? E poi i cavalieri non esisteranno più. Meglio un nome da cittadino normale. Laplace. Auguste. Perché in qualche modo la corona da imperatore la voglio indossare. E poi è il nome che ho scelto per ritirarmi in segreto dopo che la congiura per liberare il re è fallita. Dunque, plebaglia sanculotta, infoderate i vostri nasi, bitorzoluti e tumefatti dal bere, mi disgustano, buoni soltanto per annusare i miasmi dei bassi fondi. Popolo di Francia, con noi chi vuole salvare il re, salviamo il re, salviamo il re, salviamo il re, salviamo il re, salviamo il re. Silenzio, nessuno ci ha seguiti, la folla era tutta per Madama Ghigliottina. Il vestito. Devono cambiare molte cose perché il passato abbia un futuro. Ecco perché aspetto il momento opportuno nascosto a Bicêtre, casa di reclusione e asilo di miseria. Per alcuni ospedale e prigione, ospedale per partorire malattie, prigione per generare crimini. Sulla porta d'ingresso si legge rispetto per la sfortuna. Scrivilo. Malgrado l'inesistenza di qualsiasi trattamento, parecchi folli ritrovano la ragione e vengono rimessi in libertà. Eccoli là, gli alienati, stultifera navis. La follia è materia di studio fondamentale per chi voglia conoscere ed esercitare il potere. Mi trovo in una vera accademia di scienza politica, un microcosmo della nazione. Bicêtre è la Francia, infermi di mente, impegnati in discorsi più grandi di loro. Ecco perché ho attribuito a ciascuno di loro il nome di un deputato della Convenzione. Alcuni alienati li ammirano e si immedesimano a tal punto da credersi quei grand'uomini. Fra queste mura Robespierre, Saint-Just e soprattutto Marat, il grande Marat. Che una figura simile venga chiamata grande è sintomo della malattia grave che stagna sul paese. Ah, Marat è morto, Marat non è più. Cazzo. Io qui godo dei privilegi di un pensionante. Perché non leggi cosa c'è scritto sulla mia scheda? faccio io. Auguste Laplace, medico di Parigi, affetto da gravi attacchi di melancolia. Questo ospedale, prigione, ospizio, orfanotrofio, è stato teatro del massacro di settembre, quando i rivoluzionari sfondarono i cancelli in cerca di aristocratici e preti. Nessuno mi crederebbe tanto stupido da rifugiarmi nello stesso luogo dove pochi mesi fa la parodia di Giustizia del Popolino ha fatto una strage. Questo luogo è terribile, capace di mettermi di fronte ai miei limiti, perciò l'ho scelto. Superare quei limiti è un imperativo. Il contatto, la prossimità con corpi sozzi, sfatti, nasi deformi, menti deviate, mi fortificherà l'anima. Macchine umane, bestie umane, macchinari bestiali che sbavano e imprecano, è grazie a questo orrore che ho potuto cominciare ciò che mi ero proposto fin dal principio, usare questo girone dei dannati per addestrare la mia peculiare abilità. Per troppo tempo mi sono fatto trascinare dalle velleità, dalle false speranze negli esuli, dalla convinzione che controrivoluzione equivalga a restaurazione. Il tentativo fallito di liberare il re mi ha aperto gli occhi. Una controrivoluzione è una rivoluzione opposta, oppure non è nulla. E come la pensa il direttore di questo manicomio? È un illuso, votato a una causa persa, perché falsa. La regina delle false idee, la convinzione assurda che tutti gli esseri umani sono uguali. Allora ecco la rivoluzione nella rivoluzione. L'idea coraggiosa di trattare gli insensati come esseri umani, di parlare con loro. Folle o non folle, la mente di un uomo è fatta di cera. Se la volontà di un essere superiore si imprime in tale duttile materia, ecco apparire un risultato. Non più una rivoluzione, dunque, ma la volontà dell'uno che piega la volontà dell'altro, e questo accade dalla notte dei tempi. Ma la pre, vieni. Ma la pre è un internato, è muto, è un personaggio fondamentale. Ma la pre. Ma la pre saluta il pubblico. Avanti, so che lo farai. Fa progressi. Adesso parleremo. Se cercherai di recarmi offesa, proverai un terribile dolore al capo. Se cercherai di recare offesa a te stesso, ti sentirai soffocare. Hai capito quel che ho detto? Hai capito quel che ho detto? Hai capito quel che ho detto? Hai capito quel che ho detto? Per la quinta volta, hai capito quel che ho detto? Bravo, dillo ancora. La scena è intrigante. Tutto quello che accade qui dentro è parodia del mondo di fuori. Io credo che il massacro di settembre lo abbia spaventato a tal punto da fargli perdere la parola, ma sarà lui stesso a dircelo. Ma la pre, cos'è successo quella notte? Quella notte tutti correvano, i sanculotti volevano uccidere tutti. E poi? E poi io mi sono nascosa e... Continua. Avevo paura, non volevo fare la fine del... La fine del? La fine del topo. E poi arriva uno con un bastone. E cosa fa? Comincia a colpire tutti sulla testa. E io grido pietà, pietà, pietà. E poi comincia a colpirmi. E quando mi sveglio non parlo più. Non parlo più. Non parlo più. No, no, no, no, Malapre. Non fare così, no, no. È passato, è passato. Malapre, no, no, no, no. Non piangere, Malapre. No, no, no, Malapre. No, guarda, guarda, Malapre. Ho una sorpresa per te. Puoi andare, Malapre. Ah, da fuori è arrivata una strana notizia. Pare che un buffo personaggio con la maschera di Scaramouche se ne vada in giro a bastonare i bottegai che speculano. Allora per gli alienati qui dentro Scaramouche sta radunando un esercito in maschera. Con lui ci sarebbero Arlecchino, Capitan Fracassa, Scapino. In tali deformazioni ci sono molte verità. Sono nel luogo ideale. Da qui posso contemplare l'ineluttabile decorso della parodia. La dinamica rivoluzionaria subisce un'evidente accelerazione. Ogni spinta deve portare il mondo più lontano dal vecchio ordine. Per poter essere sconfitta, la rivoluzione va resa irreversibile. Solo così nascerà l'ordine nuovo, sia quello veramente antico. Oh! La controrivoluzione non è l'opposto di una rivoluzione. La controrivoluzione è una rivoluzione opposta. Io sono il prototipo di un nuovo rivoluzionario. La mia revoluzio è alla lettera giravolta che conduce all'origine. Prova, sa. Non ha senso agognare il ripristino del mondo imbastardito di 10, 20, 30 anni fa. Occorre andare molto più indietro e per farlo bisogna andare avanti. La follia è cominciata, la crisi farà il suo corso. Bicetre somiglia al mondo esterno e il mondo esterno inizia a somigliare a Bicetre. Andrò avanti in cerca del vero passato. Sono nella mia cella 3 metri per 2. Qui c'è il letto. Qui c'è un piccolo comodino, lì c'è la porta e qui in alto la finestra con le sbarre. Sono seduto sul letto. Toc toc. Non parlo, non mi muovo. Toc toc. Oggi è giorno di visite, ma quasi nessuno sa che sono qui. Toc toc toc toc. Mi alzo, riconosco un segnale convenuto. Mi avvicino alla porta, apro. È l'uomo senza naso. È stato uno dei miei complici nella congiura per liberare il re. Lo faccio entrare, chiudo alle sue spalle. Lo accompagno, lo faccio sedere sul letto. Perché sei qui? Ti avevo detto di non venire a cercarmi finché non ti avessi mandato a chiamare. Hai detto al barone dove mi trovo? Qual è il messaggio? Vuole liberare la regina. E perché non il delfino allora? Perché non l'erede al trono? Il barone mi offre un posto nella congiura. No, il barone è un illuso. C'eri anche tu quando abbiamo fallito e il sogno del barone si è rivelato senza fondamenta. C'eri anche tu quando abbiamo gridato viva il re e dimmi cosa ha risposto il dissennato popolo di Parigi. E perché siamo arrivati a questo? Te lo dico io. Siamo giunti a questo perché le casse dello Stato sono state svuotate per finanziare una guerra. Siamo giunti a questo perché la ricchezza del paese è stata scialacquata in balli, banchetti, ambascerie e puttane. Siamo giunti a questo perché i nobili e i politici hanno trascorso la vita a mangiare e a fottere. Siamo giunti a questo perché la volontà ha ceduto il passo alla mollezza. Luigi doveva morire, Maria Antonietta deve morire e anche il delfino, tutti quanti. Il loro sangue deve essere versato, insieme a loro quello di migliaia. Non si torna indietro, bisogna andare avanti. Villaggi incendiati, gli abitanti massacrati, una tabula rasa è quello che deve accadere. Gli uomini del destino sono i Danton, i Robespierre, i Marat. Costoro non vogliono salvarsi, non fuggono, sono pronti a sacrificarsi, a dare la vita per ciò in cui credono. Morranno tutti, infatti, si sbraneranno senza pietà dopo aver eretto una piramide di teste alla loro repubblica. La mia spada serve ancora alla stessa causa, ma ora la mia vista è più lunga. Digli che mi ha divorato il Minotauro. Uscirò dal labirinto a tempo debito. Apro la porta, lo faccio uscire e chiudo. Ora sarà il tempo di andare. Il direttore non potrà fare nulla. Il medico che tanto mi sta alle costole non capirà. Mostrerò loro la mia forza sonnambulizzando un intero plotone di alienati. Resteranno schierati in cortile in ordine. Gli inservienti interverranno armati di castigamatti. All'ordine del direttore di rientrare non accadrà nulla. I miei soldati non muoveranno un muscolo. Gli occhi fisseranno il vuoto. Direttore e medico capiranno che una volontà si è imposta sulle altre, la mia. Gli inservienti non aspetteranno altro che l'ordine di bastonare gli infelici e trascinarli dentro con la forza. I miei soldati resisteranno ai colpi, non sentiranno dolore, non reagiranno, sanguineranno, cadranno, ma non faranno una piega. Proveranno a rinchiudermi, a rendermi un malato come tutti gli altri, ma si illudono. È arrivato il momento, torneremo a Parigi. Saremo pronti io e Malapré, attraverseremo il cortile di Bicetre, sonnambulizzerò le guardie, usciremo in strada e a passo svelto raggiungeremo Parigi. Lì troverò l'armata di sonnambuli che il mio fedele avrà preparato per me, la mia gioventù dorata, pronta pronta a tutto. Io e la mia armata ci prenderemo le strade. Ci prenderemo le strade e saremo pronti. Ci prenderemo le strade e saremo pronti. Ci prenderemo le strade e saremo pronti al potere. Ci prenderemo le strade e saremo pronti al potere. Io e la mia armata di sonnambuli. Io e la mia armata di sonnambuli. La mia armata di sonnambuli pronta a cospargersi di trementine e a darsi fuoco in una commemorazione di piazza nel secondo anniversario della decapitazione di Capeto, mentre io libero dalla prigionia suo figlio, Luigi Carlo, il delfino erede al trono di Francia, sarà strumento di potere nelle mie mani. A quel punto... A quel punto te lo si conta noi, com'è che andò. Sì, perché a un certo punto sono sbucati fuori dei gecchi che già qualcuno li aveva occhiati dove si faceva pacche per soldi, ma poi li si è visti dilagare, diventare sempre di più, e chi erano lo abbiamo nasato. Mente cattume, la schiuma lercia dell'onda, l'onda che ci aveva portati fin lì. Erano giovani aspiranti pierculi che finché c'era la rivoluzione dovevano tenere la cresta bassa per evitare zac zac zac zac zac potature. Erano giancaccole che zoppavano da una città all'altra per non essere arruolate. Pum, pum, pum, pum, pum. Erano garzi della bottega di papà che aspettavano di ereditare l'accaparro. Erano sfaccendati che in anni come quelli si permettevano il lusso di annoiarsi. Questi ce l'avevano a morte coi giacobini e coi sanculotti e con la qualunque, purché fosse a sinistra dei cazzi loro. Aspettavano solo il momento di farcela pagare per aver osato salire sul palco e bloccato la recita, e intanto vivacchiavano nel foyer. Pensa che non dicevano la R per non dover dire l'iniziale della rivoluzione. Li dovevi vedere girare per le strade di Parigi con quei ghigni sulla faccia, i randelli e gli abiti sbirluccicosi, spille a mennicoli, orecchini, facevano male agli occhi dal gran che risplendevano. Per questo li chiamavano la gioventù dorata. Li comandava gente che fino a pochi giorni prima era terrorista, ecco la parola, è venuta fuori proprio in quei giorni. Si dava la caccia al terrorista. Terrorista era chiunque rammentasse al prossimo che anche i ricchi cagano. Questa fu la gioventù termidorata, il popolo di strada dei reazionari. Protetti dalle guardie, se ne andavano in giro a braccare la gente 100 contro 1, pestare le donne e i vecchi, ammazzare di pacchi i mendicanti, dar fuoco agli ultimi, tanto per loro eravamo tutti terroristi. Insomma, noi all'epoca si era ben mesti, la panza era vuota, il governo faceva cagare, i merdegliosi o lezzati di muschio pistavano e ammazzavano i nostri compagni un giorno sì e l'altro perché no. Ma da un certo punto qualche soddisfazione ci ha fatto sorridere, perché è saltato fuori Scaramouche, l'ammazza incredibili. Dicevano che fosse un saltimbanco italiano, su quanti dicono che era un mostro grosso come un armadio. Di certo portava una maschera di cuoio con un naso lunghissimo e aguzzo, un becco come un pugnale, lo ficcava negli occhi dei pierculi. Scaramouche era una macchina ammazza cattivi, come quel muschiatino che se ne andava in giro con una vera coda di leone penzolante dalla culotte. Scaramouche l'ha beccato una sera per strada, c'erano altri muschiatini ma nessuno ha fatto in tempo a dir beo. Scaramouche sbuca all'improvviso, gli si pare innanzi e fa: gradevole serata, ne è vero pezzo di merda. Quello resta a bocca aperta e per l'appunto spam una svirgolata sinistra-destra che gli fa cadere so quanti denti da sotto la sciarpa. A quel punto Scaramouche gli spara un discorsetto: voilà, razza di ripugnanti, irredimibile stronzo, non dovrai più compiere alcuno sforzo ora per evitare di dire la R. In un battito di ciglia gli ha cambiato mezza faccia, sente il sangue che scende già cola nella mutanda. A quel punto gesto futile come tutta la sua vita miseranda, il tipo prova a prendere il manganello ma Scaramouche gli sferra un calcio sull'uccello, prova in segno di dispregio, il tipo strilla e sputa sangue, ancora qualche dente, poi si accascia perdente, tutto storto, quasi morto. Scaramouche si guarda intorno, i compari sono delle caccole, qualcuno prova a pigolare qualcosa ma Scaramouche gli mostra la mazza spaventosa, tutti si azzittano. Scaramouche afferra quello per la coda di leone e lo trascina via con la faccia che gratta per terra, mentre si dilegua col bottino di guerra e dice a chi resta: mi raccomando, riferite ai vostri compari, ai vostri padroni, alle vostre baldracche merdigliose che a ridurre così il vostro amico è stato Scaramouche. Per voi saranno cazzi amari, io vengo a restituirvi un po' del vostro terrore. Ma chi cazzo è sto Scaramouche? Applauso! Cittadini, mi è giunta ora notizia che poco fa, mentre qui si recitava e si rideva, un uomo nobile moriva in solitudine e povertà nella sua casa di Parigi. Carlo Goldoni, il grande Carlo Goldoni, il Molière italiano, la cui dipartita ci lascia tutti orfani del suo genio. Qui facciamo un po' di brusio, un po' di brusio. Brusio che... un maestro, un re tra i suoi pari, che aveva patito i rovesci della sorte, privato della pensione e spesso incompreso. E qui il brusio deve diventare mormorio. Io ora la ripeto, e alla fine il brusio, mormorio, ma mormorio forte, mormorio di angoscia. Brusio. Un maestro, un re tra i suoi pari, che aveva patito i rovesci della sorte, privato della pensione e spesso incompreso. Quando un uomo simile a un sole declina e scompare, chi resta nel buio ha il dovere di onorarlo. Noi, sudditi suoi, nel reame dell'arte. E qui dovrebbe partire una sedia. Una sedia che alla parola arte, la sedia. Padam, che mi, no. Come fatto? E noi siamo qui per onorarlo. E reciteremo in suo onore. Ma non stasera, no. Adesso è il momento del lutto. È il momento del raccoglimento. Cittadini, la rappresentazione finisce qui. E qui volano insulti. Di ogni genere. Ma stai parlando indietro insulti tremendo. Ma vogliono indietro il prezzo dei soldi. Vabbè, ma sei impazzito. È morto Goldoni. Ed io stasera non recito più. Cittadino Modone. E infatti mi hanno arrestato. Dove eravate mentre decapitavano re Luigi Capeto? Ah, io ero con una donna e gridavo viva la France, viva la France. Dalla carta civica risultate nato a Bologna. Sì, da altri documenti risultate nato a Bologna, il che mi pare più probabile dato Bologna, che vi chiamate Leonida Modonesi. Noto come Leon Modone. Ditemi dunque, Bologna sul passo di Calais, Bologna in Vandea o Bologna in Italia? Sono nato a Bologna. Siete una spia del Papa. Chi? Voi. Io? No, che Papa? No, il Papa no. Io no, io sono un attore anche di una certa notorietà. Io non mi sono mai occupato che dell'arte. Quello che hanno detto tutti gli altri che vi dipingono come un esaltato e scaricano su di voi ogni responsabilità del tafferuglio scoppiato in teatro. Il vostro ambiguo discorso sulla morte di Goldoni ha causato turbamento all'ordine repubblicano. Sì? Tutta l'enfasi sull'uomo nobile, un re tra i suoi pari, noi sudditi e bene. È parsa a molti una chiara allusione alla caduta della monarchia. No. Nessuna allusione alla situazione politica, cittadino, io posso garantirlo. Il potere rivoluzionario rispetta la libertà di opinione, ma attenzione a quel che dite. Se vi trovassi colpevole di propaganda monarchica ne andrebbe della vostra libertà, se non della vita. No, io colpevole non mi ritengo né lo sono. Io sono fedele alla Repubblica ed ho gioito, anzi goduto, alla morte del tiranno. Le origini del mio discorso derivano proprio dal mio rapporto con il maestro Goldoni. Sto esercitando la giustizia. Sì, E già che ci siamo, attenzione anche a un'altra cosa. Cosa? Chi era in sala mi riferisce che il discorso non fu granché. È che Goldoni avrebbe meritato di meglio. Meno iperboli, più accenti sentiti e sinceri. Io vi ho visto recitare in diverse occasioni, cittadino Modone. Devo dire che voi tendete all'enfasi. Voi dite? Sì, è la scuola italiana, tecnica estromistificazione. Vabbè, io adesso sono libero, posso andare? Niente fretta, Modone. Voi siete quel che si dice una testa calda. C'è stato anche un altro episodio di turbamento dell'ordine pubblico. È un gesto che non posso che definire aggressione. Ah, sì, è vero. Io non so veramente cosa mi sia capitato, ma che tra il pubblico c'era un provocatore. Il pubblico ha tutto il diritto di dissentire. Che cosa avrebbe fatto? Sentiamo. Mentre io recitavo il mio monologo, lui si è alzato in piedi e ha cominciato a urlare. Bau, bau. Una reazione come la vostra comporta 4 giorni di prigione, una segnalazione scritta col vostro nome. La segnalazione, cittadino Modone. Ho ricevuto ordini molto chiari in proposito e la musa mi perdonerà se con questo la priverò dei vostri servigi, sempre che non mi ringrazi. Recitare la mia vita, io non ho mai fatto altro. Potreste sempre arruolarvi. La Repubblica ha bisogno di buoni patrioti. Donate il sangue, Modone. Tutt'arma il mondo. Come diceva il mio maestro Goldoni nella sua stupenda commedia, La guerra. Donna Florida, permettete che io vada ad arrischiare la mia sorte cos'altro devo fare io per prepararmi al cimento? Oh, se mi chiamano al campo, so che deggio obbedire, e se mi affronta il nemico, so che posso perire, ma so peraltro sì che l'importuna tristizia non deve rendermi inforte il mio coraggio. Oh, vi prego, lasciatemi godere questi momenti di vita, e se non vi piace che io giochi, oh, consolatemi almeno con la dolcezza del vostro sguardo. Tutt'arme il mondo. François, dobbiamo allestire al più presto un lavoro del maestro, e questo è il miglior omaggio da offrirgli. Poi voi siete tutti dei discreti commedianti. Hai la rogna, Modonè. Che significa? Non fai più parte della compagnia. E il motivo? Modonè il piantagrane. Modonè il portaguai. Modonè l'esibizionista. Sti codardi, codardi, voi non meritate la mia arte. Modonè, non c'è posto per te. Questa lettera è indirizzata a tutte le compagnie di attori e ai proprietari della capitale. Visto il ripetersi di intemperanze nei luoghi dati agli spettacoli, si consiglia di prendere provvedimenti nei confronti dei seguenti cittadini che tali tumulti hanno innescato e fomentato nel corso degli ultimi mesi. Il tuo nome è terzo della lista, dopo due guitti notoriamente controrivoluzionari. Hai la rogna, Modonè! Un consiglio del genere è peggio di una sentenza. Questi cominciano a sospendere le rappresentazioni, a chiudere i teatri. Ed ecco che mi ritrovo a Ponte Nuovo. Sotto ci dormo di notte, sopra ci lavoro di giorno. Salti in banco, senza un banco su cui saltare. Mi tocca una vita di merda. Bravo, sono bravo, perché sono bravo, ma triste, ma stanco, ma sporco, e dopo un poco i lazzi mi escono male. E poi devo fare tutto da solo. Una fatica improba. Gli spettatori, il pubblico, che praticamente sarebbero i passanti, mi fanno elemosina, e magra per giunta. Che vita che mi tocca. Una donna. Ecco che cosa mi ci vorrebbe, una donna, una buona donna. Anche non buona, l'importante è che guadagni. Vi ho detto di cosa mi disse una volta Goldoni. Un uomo d'importanza se riconosce dal codasso demone che si tira drio. Goldoni, che genio, un genio, è il genio novatore di tutta l'arte nostra. Mi portava sulle ginocchia quando ero bimbo, e quando lo rividi qui a Parigi mi disse parole che sono state per me un'autentica lezione di vita, un padre spirituale. Un uomo d'importanza si riconosce dal codasso demone che si tira drio. Ed io lo voglio un bel codasso demone dietro di me. Vabbè. Sono pronto. Oh, buongiorno cittadini. Io adesso vi eseguirò un monologo dal titolo La Marchesa ha rotto piatto. Non andate via, vi prego, no. Sì, è vero, avete ragione. La Marchesa non è il soggetto giusto, non bisogna fare caricature oscene sull'aristocrazia. Beh, ciò che è morto e sepolto non bisogna resuscitarlo neanche a sputarci sopra. A sputarci. Di solito faccio sbellicare, poi al cannone. Ma mi state guardando, mi state sentendo? La mizza, dov'è la mizza del cittadino? La mizza, ecco, tuona il cannone estate 1793. Sei diventato un eroe. Che ironia, un eroe. Un nuovo eroe con la maschera della commedia dell'arte, Scaramuccia. Un ex soldato di imprecisata avventura, scattoso e fanfarone, Scaramuccia. Io vivo a Parigi da circa 6 anni e quasi tutte le sere ho recitato per un pubblico sotto il cielo o sul palco di un teatro e diciamo almeno 5 volte la settimana, che fa 52 per 5 per 260 moltiplica, fa 1500 esibizioni. Quante volte credete che mi abbiano riconosciuto per strada e teso la mano per salutarmi? 7. 10, ultimamente mai. Ebbene, per una volta che io mi trovo al centro di una ribellione di massa, per aver fatto un gesto che oserei definire un tantino plateale, ecco che la gente mi riconosce per davvero e mi applaude anche, ma non per i miei trascorsi di attore o per la bravura del momento, no, ma perché io quel giorno ho acceso la miccia di un cannone. E mi riconosce nei panni di Scaramouche non per averlo portato in teatro centinaia di volte con delle trovate incredibili, no, no, ma perché io quel giorno indossavo una maschera che vagamente ricordava quella di Scaramouche. I parigini non sono più interessati al vecchio teatro. Questa è la verità, sì. I vecchi teatri sono ancora pieni di gente, ci sono rappresentazioni che fanno scalpore, ma il motivo non sono più perché non è più un attore oppure la magia di un testo, no? Il motivo è solo politico. Il teatro è diventato grande quanto Parigi e gli spettacoli più emozionanti sono quelli in cui la gente perde la testa per davvero. Ma allora è la mia prospettiva ad essere sbagliata. Un attore come me deve scendere a recitare in strada non per la mancanza di un teatro. Un attore come me deve scendere in strada perché la strada è un teatro più efficace, più emozionante. Questa è la vera sfida di questi tempi convulsi. Questa è l'arte. Sapere interpretare lo spirito del proprio tempo, saper cogliere il vento del cambiamento e prendere il largo a gonfie vele. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, les tendons sanglants élevés. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avete saputo di quel bottegaio a raffone, Scaramouche? Lo Scaramouche l'ha conciato ben bene. Ma che lo Scaramouche, quello del cannone? Sì, proprio lui. Ma di notte le sue pièce vanno in scena senza pubblico. Scaramouche prende a randellate gli accaparratori. Quanto è diverso il vecchio teatro da questo nuovo, vasto quanto il mondo, è in corso una trasformazione del gusto e dell'arte. Signori, signori, Scaramouche ha dei doveri. Contro nude la tirania, le tendance sanglante le vee. Scusate, Marat è morto, Marat non è più. Oh cazzo. Ecco questo. Questo è il vero teatro della rivoluzione. Come sarebbe possibile ritornare a recitare un vecchio copione al chiuso di una sala quando il teatro si è fatto storia sotto il cielo di Francia? Ma la tristezza non deve sopraffarmi, la rabbia pulsa forte. Questo è un funerale degno dell'uomo che Marat è stato. Di fronte ad una donna che piange sotto il feretro di Marat, non posso che leggere una conclusione. La quantità di gnocca è il segno distintivo di un grand'uomo, come disse il mio maestro Goldoni. Il teatro è la rivoluzione. Non Non pensavo che venivate oggi. Vi ho visto al corteo funebre per Marà, avete pianto? Lui era l'amico del popolo. L'abito è pronto. Certo, ancora non ci si crede, vero? Che Marà è morto, che dovremo fare senza di lui. È per questo che vi prudono le mani. Beh, sì, anche. Allora dovreste arruolarvi per la Vandea. L'assassina era una di quelli là. Io credo che qui a Parigi il popolo stia combattendo una battaglia non meno importante. Per questo hanno ucciso Marà, ma non possono ammazzarci tutti. Non avete paura di morire? Meno di quanta ne abbia di vivere sotto un ponte o in una fogna. Una mia amica che faceva l'attrice ha una mucchia di roba presa nei teatri. Me ne ha data un po'. Veramente c'è solo una giacca. L'importante è che resista ai colpi. E a questo punto dovreste provarla. Tregnac! Voi siete Leo Modonè. Dovrei sbattervi dentro. Per quale ragione? Aggressione. Tentato omicidio. Con quali prove? Se vi vedo ancora girare attorno a casa sua non vi arresto. Vi faccio sparire. L'ultimo gecko di cui Maria ha bisogno è uno come voi. Non mi credete un buon patriota? Vi credo un profittatore, tale quale quelli che avete conciato. Voi non capite. E invece mi sa di sì. Siete avvertito. I sonni tranquilli si addicono alle comparse. Non ai primi attori che portano sulle spalle il peso dell'intera commedia. Io rappresento il popolo. Se voglio farmi strada nel nuovo teatro, devo pensare solamente a far breccia nel cuore degli spettatori. Io rappresento il popolo. Che poi questa battuta si presta ad una doppia interpretazione, in quanto rappresentare il popolo significa agire per conto di, ma significa anche metterlo in scena. Sei un pagliaccio. Un pagliaccio che si è accaparrato il diritto di esercitare la giustizia, dunque sei un accaparratore e come tale sarai punito. Col cazzo. Di fronte alla ghigliottina il popolo ride, il popolo fischia il malcapitato come un figurante che ha sbagliato la sua unica battuta. Infatti, il popolo consacra la prestazione di Madama Ghigliottina e lei la vera protagonista. Un'interpretazione secca, precisa, senza sbavature. È lei l'attrice, al cui cospetto ci si può solo inchinare. Zitto, Bastien! No. Ha ragione. Questo è il mio errore. Madame la ghigliottina rappresenta il popolo molto meglio del mio misero Scaramouche. E il popolo si è affidato a Scaramouche solo in mancanza della ghigliottina, come una compagnia si affida ad un sostituto quando il suo mattatore ha letto con la febbre. Se la pena di morte per gli accaparratori diventa effettiva, il sostituto deve scendere di scena. E andare in cucina. Bella storia, eh? Essere saliti sul vasto palcoscenico della rivoluzione di Francia per poi ritrovarmi a fare lo sguattero ore e ore con le mani nell'acqua a scrostar piatti e posate. L'inverno è durissimo e non accenna a mollare la presa. C'è poco da mangiare, poco guadagno e la scena tenuta abilmente dalla prima attrice Notre Dame la ghigliottina. Se io devo arrendermi all'evidenza, io non sono più un attore, io sono uno sguattero. Piangersi addosso il balsamo degli inetti. Un uomo di genio, anche se sconfitto, non veste mai i panni della vittima. Troppo banale. E se lo chiamano italiano, lui ride. Mamma mia, incredibile. Guardate quel gavzone. Quello alto una spanna più di sto cazzo. Miserabile individuo, ne aveva. Le ragioni, mio caro. Non basta la nostra feccia. Che ecco che ti spunta quella italiana. Ehi, forestiero, italiano. Ehi, perché sei italiano, non è vero? Non più di quanto sia sguattero. Perché sei italiano, non è vero? Non più di quanto sia sguattero. La tua miserabile apparenza mi disturba, Leopepsia. Vedi di presentarti al nostro cospetto conciato come si deve. Il tuo disgustoso apparato è un'offesa ai danni di tutta legalità. Io parola mia, veramente non capisco perché parlino in questo modo. Ma com'è possibile che con tante teste che rotolano sulla pubblica piazza sti stronzi riescono a mantenere indisturbati la loro? Questi odiano la rivoluzione, odiano la Repubblica e la odiano a tal punto da cancellarne l'iniziale dal vocabolario. E provavo l'italiano, non è da tutti filmare così la propria lovina. Alla barriera dei combattimenti dopodomani di primo mattino. Se hai il coraggio di presentarti. Orsù cuori, cuori di lepre, che vi trastullate l'arnese sotto lo scranno e angariate gli sventurati, orsù, cricca priva di vergogna, che trascorrete le giornate in osteria, grattandovi le croste dal cranio e parlando male della povera gente, orsù, sporchi fascisti, grumi di sangue rinsecchito che credete di coprire l'odore di merda e di putrefazione con il profumo di fiori morti. Orsù, voi che trovate incredibile qualunque stronzata, come io trovo assurdo il vostro non essere ancora crepati sotto gli strali della rivoluzione. Ecco, questa è l'atmosfera giusta. Il tempo della commedia è finito da un pezzo ed ora anche la ghigliottina, col suo terrore equanime e pulito, porta il pubblico alla noia. Il nuovo teatro sarà un impasto di dramma e non so ancora cosa. Vi ho detto di cosa mi disse una volta Goldoni. Un uomo d'importanza si riconosce dal codasso demone che il si tira drio. Devo dirti una cosa adesso. Un momento, no, devo fare no, il importante. Finale. Zitto. Leo, è importante, devo che dirtela c'è? Adesso. Che c'è? Mi sa che ti ha dato del coglione. Chi? Goldoni. A me? Sì, in veneziano mona significa anche idiota, imbecille, mentecatto. Goldoni ti ha detto che un uomo importante si porta sempre dietro un codazzo di imbecilli. Tu hai idea di quante persone gli andassero dietro per strada per chiedergli un consiglio o una spintarella o magari per raccontargli la loro storia? Soprattutto italiani. Tu eri uno dei tanti. Dunque così. Anche l'ultimo sogno deve essermi sottratto. Ma guarda che sei fortunato, in fondo ti ha dedicato un motto di spirito. Armata di sonnambuli schierati e pronti all'azione, intonano il nuovo inno anti-giacobino, insensibili al dolore, mulinano braccia e bastoni, gambe e ginocchia, gomiti e testate. Fanno spedizioni punitive contro la plebaglia sanculotta e quando la gioventù dorata si manifesta i gendarmi hanno l'ordine di lasciar passare. Non vi è tutore dell'ordine che ne sia ignaro. Apprezzolare e comandare la gioventù dorata sono proprio i nuovi capi. Una vittoria dopo l'altra, la nuova forma di terrore batterà le strade. Thank you. veramente riparto da zero. Il nuovo teatro sorgerà su una tabula rasa, ancora in scena, forse per l'ultima volta, prima che la storia faccia il suo giro, prima di andarmene al diavolo o in gloria. L'ultimo spettacolo di Scaramouche. Non è la rivoluzione ad avermi deluso e neanche il teatro, ma è la vita stessa. Armata dei sonnambuli, eccomi, sono pronto. Il colpo va restituito all'altezza di quello subito. A buon gatto, buon ratto, alla battuta dell'antagonista, il protagonista deve rispondere riprendendosi la scena. Alla battuta dell'antagonista, il protagonista deve rispondere riprendendosi la scena.